24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. E allora, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e bisogna aggiornare la sigla perché avete sentito anche Renzi ci ha messo un mese, ieri ha detto a Daria Bignardi per capire questa metafora del tacchino, del piccione, del passerotto. Allora, siamo qua in diretta 24 mattino fino alle 9, saluto Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè come sempre in regia e c'è il consiglio solito del presidente del consiglio. But please relax. Sempre, sempre possiamo aprire il nostro bar condicio. Dove il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti. Avete finito di rompere le palle con la Minetti. E la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare questo d'altro. È... Andate a lavorare. Questo è Nicole Minetti che ci offre il caffè. E lo offre anche questo giovedì a Vincino, ecco, che saluto. Buongiorno. Buongiorno, direttore del Male, insieme a Vauro. E saluto anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Abbiamo ricomposto la strana coppia. Puoi dirlo proprio. Ma orgoglioso per me. Orgoglioso. Allora, ma Vincino, lei l'ha capita in meno di un mese la metafora del passerotto, del tacchino e del quelle cose lì che stanno sul tetto, insomma. Certo, è bellissimo, il PD fa il PD e la banca fa la banca, e questo è molto più complicato, molto ecco, più bello. Ecco, eccolo, subito lì entra, come si suol dire, con i piedi nel piatto, no? sulle banche. E lui è là che dice, io facevo solo il cassiere al Monte dei Paschi, volete che ne sappia di derivati? La storia è bellissima, la storia di questo foglio grande, questo derivato enorme che gli ha dato la Namura, no? Che vale, non so, tipo 700 miliardi, è una cosa, loro se lo tengono in banca, però se lo mettono a bilancio, è tantissimo. È bello, sono tutti problemi, io pure ci provo, faccio una vignetta, da 500 milioni, via. Una vignetta da 500 milioni? La vignetta da 500 milioni, no? Mannaggia. Qualcuno magari la compra. Io ieri ho detto, ho invitato tutti i cittadini italiani, entrate in una qualsiasi filiale del Monte Paschi Siena, dite che vi manda un'amica, Alexandria, e chiedete un mutuo e vedete un po', se non ve lo danno fate un piantate su un casino che non uscite da lì senza che non vi... me l'ha detto Alexandria, è una mia amica, mi ha detto di chiedere un mutuo e fatevelo dare. Però io voglio iniziare, vi devo fare un quiz perché è un po' dei vostri tempi, quindi. Allora, Maurizio Tortorella, tu sai chi è Virginia Minetti? Minetti con due N? Virginia, no. Minetti, ma come? Vincino, Virginia Minetti. Minetti. No. Vi faccio ascoltare una cosa che potrebbe aiutarvi, Potrebbe aiutarvi, sentite. Guardi, non ci sono, io ho chiesto esplicitamente di non esserci perché in febbraio ho dei passaggi televisivi da fare. Vabbè, ma la voce non potete riconoscerla, vediamo qualcosa che può aiutarvi di più. Assolutamente. Maurizio! Viola Valentino, Virginia Minetti, comprami! Questa era dei tuoi tempi, Sì, Viola Valentino, certamente una cantante, una bella donna. È Virginia Minetti, in arte Viola Valentino. È bravissima, eccoci. È bravissima. L'hanno messa in lista, che succede? Eccolo lì, c'è un giallo, potrebbe essere candidata, dovrebbe essere candidata per la lista dei pirati. alla Cannes, la lista dei pirati. In realtà qui c'è un giallo clamoroso, perché adesso possiamo far riascoltare la voce, perché ieri Alessandro Longoni l'ha chiamata e lei ha smentito e ha detto la frase ci siamo arrivati anche alla candidatura a mia insaputa, sentite. Guardi, non ci sono, io ho chiesto esplicitamente di non esserci perché in febbraio ho dei passaggi televisivi da fare. E se sono candidata non posso fare i miei passaggi televisivi, quindi assolutamente non ho aderito. Cioè, se l'ha fatto, l'ha fatto a mia insaputa. Se l'ha fatto a mia insaputa, l'ha fatto paga. A mia insaputa! Siamo arrivati anche alla candidatura a mia insaputa. Maurizio Tortorella, cosa dobbiamo vedere ancora di questa campagna elettorale? Ne vedremo ancora delle bellissime, non delle belle, però devo dire che trattandosi di pirati. Sì. Mi pare un comportamento congruo. No, perché lì c'è un giallo, perché il titolare della lista è il suo ex marito. E allora ha detto: e se l'ha fatto a mia insaputa, paga. Adesso paga. E quindi... Oddio, povero uomo, non sono io. No, comunque chissà, Viola Valentino si è candidato, no, con la lista dei pirati, non si capisce, comprami, io sono in vendita, vabbè, siamo arrivati anche a questo. Allora, no, di cosa volete parlare? Della banca? Subito mi dovete fare questa sudare freddo, questa storia del Monte Paschi Siena, praticamente. La domanda con cui mi sono svegliato è questa: ma questi 500 milioni di possibile perdita, perché sono venute fuori storie di derivati che anche Banca Italia ha detto a Monte Paschi Siena ci aveva nascosto, chi li pagherà nel caso dovessero venire fuori? Li abbiamo già pagati, noi gli stiamo dando 3 miliardi, gli abbiamo dati 3 miliardi e mezzo. Però quasi 4 per la verità. Come, quale titolo, quale scrittura? Non lo so. Ok, dovremmo dare molto di più di 4, perché il rosso del Monte dei Paschi incomincia ad apparire in tutte le sue dimensioni, è un bel problema. Sì. Devo dire che è una situazione veramente impressionante, anche l'assenza di vigilanza, devo dire. Ecco, perché oggi il Fatto Quotidiano pubblica tutta la telefonata che ha fatto suscitare un po' tutto, no? E nella telefonata, però, non è una telefonata, cioè non è un'intercettazione, è una conference call. Da una parte ci sono i vertici di allora, Mussari, Viola del Monte Paschi Siena, cioè 3 o 4 persone del Monte Paschi Siena, dall'altra parte in conference call il capo della Nomura da Londra, 3, 4, 5 persone, quindi tutto registrato dalla Nomura. E quindi sono almeno 10 persone che fanno questa conference call e mettono a punto quello che poi è risultato essere il problema che è venuto fuori. Per cui era tutto abbastanza, come dire, almeno a conoscenza di varie persone. Questa è la questione. Ma il mondo va così praticamente. Così come? È così, con quello che fa la confusione, quello glielo dà di nascosto, se lo prende, poi di nascosto nemmeno tanto, poi tanto è scritto, anche se l'ha scritto, non lo so, da qualche parte. E la banca, naturalmente, siccome quella là è il Monte dei Paschi, non guarda niente, la Banca d'Italia, che se ne permette a guardare, scusi. Ma come? Siccome la Monte Paschi, Banca d'Italia non guarda niente. Non guarda Monte dei Paschi, mica è una banchetta, non so, Don Vito di la banca Don Vito di ho capito, ma siccome ha 500... Monte dei Paschi, PD, c'è tutto là, c'è Berlinguer, scusi, a Siena, quello fa il garante, quello dice candidato sì, candidato no, e cosa si permette di fare? Ho capito, ma Vincino la butta subito in politica. Adesso come faccio a farmi salvare da Maurizio Tortorella? Anche Tortorella adesso la butterà in politica. Maurizio, che devo fare? Ma sai, intanto la notizia della giornata: i Paschi sono una vittima sacrificata. Una vittima sacrificata. Tutte le fregature, fu 4, gli scandali del Modenaggio di 20 anni, me le sono fatte tutte dalla sotto. E cambi banca, Vincino, cambi banca. Io sono pigro, non ce la faccio. C'è la filiale sotto casa, mettiamo una filiale di non so un'altra banca. Però Maurizio Tortorella, il caso è diventato subito politico inevitabilmente, anche perché si è scoperto, per carità, è una goccia nel mare dei soldi di cui stiamo parlando, però si è scoperto che Mussari, presidente del Monte dei Paschi, ha versato dal 2002 al 2011, se non ricordo male, 700.000 euro al PD, fondi assolutamente legittimi, sono i versamenti che ognuno di noi, ogni azienda può versare a partiti, per carità, però al PD è una cifra francamente imbarazzante sotto certi aspetti, per un per un banchiere 700.000 euro, ripeto, quasi un milione, ho capito, ma quindi però a quelli non gli bastano mai, guarda, questo è il punto, vabbè, certo, nessun partito basta mai, e più loro scoprono modi dove possono essere praticamente dove posso recuperarli. Vabbè, tra l'altro ieri avete visto Renzi aveva detto, quando c'era stata la famosa schermaglia, no, sul finanziere che aveva organizzato la cena, le primarie, Davide Serra, che adesso è andato con Monti, e Renzi aveva detto, allora invece voi state attenti al Monte Paschi Siena, e vabbè, fatto bene, bravo. Ha detto questa cosa ieri. Renzi ha detto questa cosa su Berlusconi, ha detto attenzione, non sottovalutiamo Berlusconi. E se noi non stiamo attenti, se noi non riportiamo l'entusiasmo che c'era durante le primarie in questa campagna elettorale, ci sta che Berlusconi, mettendo insieme tutto, perché Berlusconi ha messo insieme la Lega, il PDL, i Fratelli d'Italia, il Movimento Moderati per la Rivoluzione di Ciocorissa, morì, come si chiama quello lì, che ha fatto i Moderati per la Rivoluzione, una roba pazzesca, l'MPA, mancano i due leocorni che sono Razzi e Scilipoti, e poi hanno finito, ecco, Berlusconi, mettendo insieme tutta sta roba qua, rischia di vincere le elezioni. Maurizio, rischia, guarda, di vincere le elezioni, ha detto. Ma io non lo so, perché, come diceva quello, prevedere il futuro è difficile. È la cosa più difficile da prevedere, appunto. Il futuro è la cosa più difficile da prevedere. Che sicuramente Berlusconi stia rimontando è un dato di fatto inequivocabile. E che la sua campagna elettorale sia piuttosto efficace, anche per l'insipienza dei suoi concorrenti, mi pare altrettanto evidente. Cioè, dice, stiamo attenti, sorpresa, secondo me è possibile, non sottovalutiamo, anche perché quando ci furono le primarie, Renzi ricorda che fecero quel dibattito, e poi c'era il dibattito di Porta a Porta del Popolo della Libertà, e Renzi diceva sembravano degli zombie politicamente parlando, invece adesso è vincino, si sta un po', certo, perché l'entusiasmo di chi lo portava Renzi là nella cosa, poi fanno 100.000 persone, non li fanno votare, anzi gli sbattono la porta in faccia, no? Poi insomma ma questo è il passato, le primarie sono il passato, ma io, per dire, mero volevo votare nel secondo corso, ma se ne vada al diavolo, io ero a Palermo, non mi hanno dato niente, non mi hanno fatto votare, ma insomma siamo stati... Ho capito, ma questo è passato, ormai Bersani adesso le polemiche sulle primarie, ma Renzi dice che Berlusconi può tornare a vincere, questo è il punto, cioè di stare attenti, perché sennò Berlusconi rischia di essere sottovalutato dal centro-sinistra. In ogni caso andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi io vi devo, voglio dire, la notizia del giorno, cioè finora non l'abbiamo ancora trattata, Fabrizio Corona, non abbiamo ancora trattato la notizia. E poi c'è il PM di Roma pure, quello col travestito. Sì, vabbè, il PM di Roma arrestato perché per favori sessuali da parte di un travestito, ma chi se ne frega, dai, è una vicenda triste e personale, se vera, peraltro. 24 mattino. Buongiorno, sono sì arrabbiato, vorrei sì prendere un forcone e fare qualcosa. A Cosentina l'ho fatta. Ho aperto una pagina su Facebook. Quelli che ne hanno veramente piene le palle. Piene, ma piene, piene. Ciao, sono Giusy. Penso che sia l'ora che tutti vadano a casa. Io voto Grillo, ma spero ci sia Monti a seguire la cosa. Ciao. Cioè, ma mi spiegate perché nei paesi civili, quando li beccano a noleggiare un DVD in albergo o a rubare una cena, si dimettono? Il problema è che noi italiani siamo tutti ladri e tolleriamo tutto. È uno schifo. Sono sempre tutti buoni, ce li meritiamo finché non li mandiamo via calci nel culo. Salve Milan, come hai detto tu oggi, anzi urlato, basta. Ma l'unico sistema, secondo me, è quello di rimanersene a casa, sia il 24 che il 25 febbraio. Facciamoci una bella partita a carte, è molto meglio. Secondo me, i politici italiani, con un popolo come gli italiani, possono fare quello che vogliono. Ribelliamoci! Cosentino ha detto, uomo per dabbene. Che vuol dire uomo per dabbene? Un uomo per bene o da bene? Ma per dabbene che linguaggio è? Ancora siamo a sentire sti depravati. Che mortificazione. Ancora ci hanno appioppato Cicina la Purpetta. Ma quant'è che mettono sul patibolo tutti quanti? Ma perché non candidiamo Schettino? No, mi sorgeva un dubbio. Quando c'è Grillo in piazza inquadrano lui e non inquadrano le 15.000-20.000 persone che ci sono in piazza. Ma la mafia è in Sicilia o in questi giornalisti omertosi sotto quali servi di padroni sono? Addirittura la mafia, la mafia. Siamo mafiosi, Maurizio. Anche voi non date spazio a Beppe Grillo. Mafiosi, che non siete altri. Abbiamo fatto due copertine su Grillo. Ah, vabbè, sì, per scriverne male, ovviamente. Certo, ovvio. Siamo con Maurizio Tortorella e con Vincino. Allora, io ieri, non è che ho detto io basta, l'ho fatto dire adesso, tra poco magari lo faremo anche risentire, ma come fare? Oggi uno legge il secolo XIX, dopo l'Italia dei valori, adesso la Guardia di Finanza guarda nelle spese del Popolo della Libertà. Senta Vincino, le terme di Vinadio, sono andati alle terme di Vinadio, hanno comprato 2 chili di formaggio Sanste in un caseificio a Rezzo Aglio, tutto poi rimborsato dalla regione, cene a lume di candela a Rapallo, gioielli per 1.600 euro, 5 paia d'orecchini, 10 bracciali, 5 collane, e che era? E che era, gli elettori dovevano darli. Oro falso. Pranzi al ristorante di lusso, cristallerie, vasellame, tutto alle nostre spese, tutto alle nostre spese. Come faccio a non rimandare per una volta ancora il nostro Oscar Giannino quando urlava i suoi famosi? Basta! Basta! Basta! È così, cioè, che dobbiamo fare, Maurizio? Cosa deve fare la gente per dire basta a queste cose qua? Sicuramente non fare quello che dice la signora, cioè non andare a votare. Era tra l'altro, se non sbaglio, la stessa voce di quella bella voce di quella donna che tu usi. Non lo so, non credo. Fruttore ultimo. L'antidoto allo stress della vita moderna. Lo spot finale. No, comunque no, la cosa esattamente opposta deve fare la gente, cioè andare a votare e scegliere, se possibile ovviamente, un candidato discreto. Lo so che ma quale? Dove? Come lo trova uno discreto? Però nella tua circoscrizione ci sarà un candidato. Vincino dice, ma quale? Come lo riconosci? Come lo riconosci? Vincino, come si riconosce il candidato giusto? Non lo so, io mi sono avanti e dietro, da tutti i lati. Tu, per una mano, tante volte trovo lo stesso candidato dappertutto, no? Sì, certo. Groia, ma ti presenti in tutta Italia, ma tu a Palermo non puoi essere eletto, ma non presentarti a Palermo se non puoi essere eletto, no, perché ci sarà un motivo che c'è questa legge. La legge permette di candidarsi ovunque. No, non può, però a Palermo uno che fa il procuratore a Palermo non può essere eletto, per quale motivo? Perché da procuratore conosce tutti tutte le registrazioni segrete di tutto, e quindi ha dei vantaggi, no? Ma lui invece no, dice, però io mi metto a capolista, poi mi vengono, mi depenno. No, certo, dai, bravo, ma i vantaggi te li sei già presi. Però, ho capito, ma la legge, se il pesce puzza sempre dalla testa, se la legge elettorale consente delle schifezze, uno le utilizza per il proprio conto. Ma il procuratore integerimo usa le schifezze e non ci crederò mai. Ma le stesse sono le schifezze della legge elettorale, capolista su tutto, è un nome che tira, quello di Ingroia, ma come quello di Berlusconi, di Bersani, di Monti, eccetera. No, Monti non si deve candidare perché è già al Senato, però uno si mette ovunque. Però vabbè, non abbiamo parlato di Fabrizio Corona, io non lo so, ma Fabrizio Corona è un mito diventato, guarda. Uno che poteva fare una telefonata, sapete come, quando l'hanno beccato, che fa? Uno che fa, se deve fare una telefonata, telefona alla mamma, telefona al fratello, alla studio aperto, ha chiamato a studio aperto, sentite, amici di studio aperto. Amici di studio aperto, mi trovo nel carcere di Lisbona. Sto bene, sono tranquillo, mi sono consegnato spontaneamente. Querelo ogni persona che si permette di dire che ho pianto, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Resto del Carlino. Sono tranquillo, sono sereno, non ho paura, non ho pianto e sono pronto a combattere la mia battaglia. Per favore, dite voi soltanto la verità. Maurizio, una cosa, una telefonata poteva fare per dire querelo chi dice che ho pianto. Questo è un handicap, questo... ha fatto un errore gravissimo. Tortorella, il maschio alfa che piange non si può vedere. No, non è ammissibile. Non è ammissibile, cioè. Allora, brutto per chiunque andare, immagino, in galera. Sì, ed è brutto anche ridere di uno che va in galera. Questo va, ma questo detto. Sì, assolutamente. Però in galera non si augura nessuno. Per carità, però l'idea che uno il suo grande unico problema sia quello di dimostrare a tutto il mondo che non ha pianto, francamente mi sembra un po'. Sì, querelo tutti. Però un'altra cosa per follia, dire, insomma. Che le carceri portoghesi sono meglio di quelle italiane. E cioè, questo... il Portogallo è più avanti nelle strutture, nelle cose, cioè ha più autostrade, ha più cose, è più bello dell'Italia. E perché lui l'ha spiegata così? Ho paura che in galera in Italia qualcuno mi ammazzi, che le galere esatto, italiane. Esatto, in una scelta, ma anche così, anche spostandosi, non so, va male, mi fa male. Non è che... Vabbè, ma io devo. Perché oggi, Maurizio, sulla copertina di Panorama c'è una russa che fa shopping, che mi guarda con tutti i pacchi sull'invasione dei russi? Che chissà, si stanno. Perché mamma li russi. I russi stanno è da tanto tempo che ci lo diciamo, ma a Milano, per esempio, nei primi 6 mesi del 2012 sono arrivati più di 90.000 russi, quasi 100.000, ed è la prima nazionalità per presenza turistica. I russi stanno risollevando il nostro made in Italy. Almeno consumano loro, ci stanno comprando nel senso materiale dello shopping. Oggi su Panorama la trovate in copertina. Vi ringrazio, Maurizio Tortorella e Vincino, ci troviamo dopo le 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Ventiquattro Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora, sono le 7:20, siamo pronti per la rassegna stampa, per la lettura dei giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospiti il sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, perché c'è stata una vicenda che ha creato polemiche. La nomina un assessore che però ha un passato da brigatista in prima linea, è un passato lontano, è una nomina che poi è saltata. Avremo ospite il sindaco per cercare di capire questo tema, il perché aveva scelto questa persona, e poi avremo una storia di una persona magari sconosciuta, Giuseppe Gulotta, non vi dirà molto questo nome, ma pensate che questo signore ha fatto 21 anni di carcere, anzi 21 anni e 6 mesi, ed era totalmente innocente, accusato di un delitto che non aveva mai commesso. Oggi racconterà la sua storia, ora chiede un risarcimento di circa 70 milioni di euro allo Stato italiano. 21 anni e 6 mesi in carcere per un reato mai commesso. Ne parleremo più avanti, sarà il nostro ospite alle 8:30, ora andiamo alla lettura dei quotidiani. È giovedì 24 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul piano di Confindustria per lo sviluppo, terapia d'urto, crescere si può, sono le parole del presidente di Confindustria Squinzi. Il Corriere della Sera e molti altri giornali invece sulla vicenda Montepaschi-Siena, che è diventato anche un caso politico. Le accuse della Banca d'Italia, così titola il Corriere della Sera in prima pagina. Per Repubblica, Banca Italia ingannati da Montepaschi. Il Messaggero, Montepaschi, l'accusa di Banca Italia. Il Fatto Quotidiano, che è il quotidiano che due giorni fa ha tirato fuori questa vicenda. Mussari, ecco la telefonata che lo ha fatto dimettere. Il Giornale, abbiamo pagato l'IMU a Monti per salvare la banca del PD. Libero, la bancarotta del Partito Democratico, del PD. La Stampa invece apre sul Fondo Monetario Internazionale, Europa-Italia ancora giù. Avvenire, Monti, Bersani ai ferri corti. L'Unità, Monti smetta di dare lezioni, è una frase di Pierluigi Bersani, lui ha creato gli esodati. E il Manifesto invece c'è la foto di Mario Monti, io vi salverò, è un Monti sempre più Berlusconi secondo il Manifesto, che a Davos si presenta come il nuovo uomo della provvidenza. Prima però, visto che le mani sono sempre ben salde sul volante, lo so a quest'ora se state guidando, voglio leggervi il titolo d'apertura del Secolo XIX, perché in qualche modo è l'appendice della puntata di ieri, dell'apertura della rassegna stampa di ieri. Si tratta sempre delle spese della regione Liguria, consiglieri regionali. Ieri la Guardia di Finanza si è concentrata sull'Italia dei Valori, ora le altre forze politiche, anche il Popolo della Libertà. Le spese pazze, il titolo del Secolo XIX in prima pagina, avete le mani ben salde sul volante, le spese PDL, gioielli e cene romantiche. Ebbene sì, le cene non mancano mai. Ah, le cene romantiche non mancano mai. L'accusa è sempre quella, l'uso di fondi pubblici, soldi nostri, per fatti loro. Rimborsi elettorali, la bufera investe anche il Popolo della Libertà, scrive a pagina 4 il Secolo nell'articolo di cronaca. Lo scandalo Liguria si allarga, coi soldi pubblici pagate anche viaggi e medicine. Ed ecco qui le carte, la firma di Marco Grasso e Matteo Indice a pagina 5, gioielli, gite alle terme per i Berluscones. Mentre l'UDC metteva in nota del vasellame, 450 euro. Ma sentite qua, il PDL inserisce invece 1.614 euro sborsati in una gioielleria tra il 2010 e il 2011, Fanny Shop a Genova. Sono usciti 930 euro una botta unica. Per 5 paia d'orecchini, 10 bracciali, 5 collane, si capisce, era il 14 dicembre, era sotto Natale del 2012. E poi ancora 129 euro spesi per telefonia e tecnologia, ma ancora 104 euro in un'osteria. Le terme di Vinadio, un altro, 5 ingressi in piscina alle terme. E poi mantenendosi in campo termale c'è anche 310 euro pagati a un hotel di Acquiterme. Notare il diffuso relax, scrive il Secolo XIX. E poi 2 chili di formaggio Sanste, acquistati al caseificio di Rezzo Aglio il 2 ottobre del 2010. Anche 2 chili di formaggio, cene a lume di candela. In una pezza d'accompagnamento hanno proprio scritto così: cene romantiche, 2 cene romantiche, cioè c'è scritto così, proprio in maniera esplicita, rimborsi per 2 cene romantiche, chissà come si saranno concluse alla regione Liguria. E sempre soldi ovviamente nostri, no, lo dico perché il Corriere della Sera, come sempre i confronti sono impietosi da questo punto di vista, ci pone a pagina 16 il caso nuovo di un altro ministro tedesco che probabilmente ha copiato la tesi. E sapete che già c'è il ministro, credo, della difesa, che si è dovuto dimettere per aver copiato parte della tesi. Ora c'è un nuovo caso di plagio in Germania. La ministra dell'istruzione copia la tesi di laurea. Imbarazzo in Germania. Immaginatevi in Germania sconvolti. Già l'anno scorso questa ministra, si tratta di Annette Schavan, aveva preso un aereo militare per andare a un'udienza privata del Papa e aveva speso 150.000 euro. Der Spiegel aveva denunciato questa cosa e si era salvata questa ministra per il rotto della cuffia, ma questa volta pare proprio che non ce la farà. Ha copiato la tesi di laurea, questa è l'accusa di vari anni fa, la tesi di dottorato, una parte della tesi, e Angela Merkel cerca di difenderla. Ognuno è innocente fino a propria contraria, ma da tempo l'opposizione chiede le dimissioni di questa 57enne che ha una cattedra onoraria in teologia a Berlino, non si è ricandidata qualche mese fa nel gruppo dirigente della CDU, un caso che va avanti dall'estate scorsa, quando un sito anonimo su internet pubblicò una documentazione sulle disinvolture scientifiche contenute nella sua dissertazione intitolata Persona e coscienza. Forse ha copiato e è sulla graticola e probabilmente si dovrà dimettere il ministro all'istruzione per una tesi di laurea scopiazzata qua e là. E sono cose che fanno pensare, cari ascoltatori. Meditate durante la pubblicità del meteo. Tra 5 minuti ci riprendiamo e torniamo a parlare di Monte Paschi Siena e la politica, l'economia. Queste notizie in primo piano sui giornali italiani. Smau informa. Le tecnologie hanno cambiato per sempre il nostro modo di lavorare. A Bari il 6 e 7 febbraio ti aspettano Cisco, Fujitsu, IBM, Intel, Microsoft, SAP, Telecom Italia, Vodafone e le migliori School of Management. Smau, i protagonisti dell'innovazione insieme, a disposizione della tua impresa. www.smau.it. Dottore, mia moglie dice che sono monotematico. Solo perché dico che vorrei prendere una Smart a 98 euro al mese. 98, capisce? Che poi dopo 2 anni posso anche restituirla. 98 euro al mese e poi posso restituirla. 98 e restituirla. Restituirla dopo 2 anni a 98 euro al mese. Lei che dice? Ha ragione mia moglie? Smart. Sarà difficile togliersela dalla testa. 23 canoni, anticipo 2.500 euro. TAM fisso 6,40, TAEG 10,34. Per vetture immatricolate entro il 28 febbraio. Info smart.com. Hai bisogno di contanti? Cerchi la tua banca. Ma sei in vacanza. In alta montagna. 500 abitanti e 12.000 pecore. Ma deve essere tutto così complicato. Oppure passi a Fineco, hai il conto corrente a zero canone e prelevi senza spese da qualunque bancomat. Semplice. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su fineco.it e presso i nostri promotori finanziari. Chiama l'800 101 101. Fineco, la banca che semplifica la banca. Hai capito che succede? Con Opel GPL Tech oggi hai il tasso zero e fai un pieno da soli 26 euro. Fatti bene i conti. Nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese. Oggi a tasso zero. Sabato e domenica. TAEG 257. Scopri di più su opel.it. Irresistibile! Imperdibile! Formidabile! Ancora di più! È stracciaprezzi! La strabiliante offerta dei negozi Expert! Come lo smartphone Samsung Galaxy Next Turbo, Android, touchscreen, GPS integrato, che costa solo 109 euro! Expert! Gli esperti siamo noi! Offerta valida nei punti vendita aderenti. Stracciaprezzi! Roba da non crederci! Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. La perturbazione numero 9 di gennaio oggi ci porterà ancora un po' di piogge, soprattutto sulle regioni meridionali, mentre domani si formerà un vortice di bassa pressione che, capace di richiamare sul Mediterraneo correnti gelide dall'Europa nord-orientale, favorirà un aumento del freddo in gran parte del paese, tra l'altro con nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico. Ma tornando alla giornata odierna, vedremo la pioggia soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e le regioni meridionali, con nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, mentre per quello che riguarda le temperature, le massime caleranno sulle regioni del versante adriatico e al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto. Se sei un'azienda, se sei un'azienda e cerchi agenti, cerchi agenti, rappresentanti, rappresentanti o venditori, vai su agenti.it. www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Di qualità, di qualità. Quante volte vorresti che rispondesse a quello che dici? Che leggesse sempre i tuoi SMS? Insomma, che fosse un po' come la nuova Ford Fiesta. Dal 24 gennaio al 10 febbraio, nelle principali piazze italiane, parte il Fiesta Day. Fai il Tech Drive, prova le sue tecnologie innovative e partecipa al concorso Fiesta 24 ore. Puoi vincere 24 Ford Fiesta per 24 mesi. Scopri di più su Ford.it. Valore montepremi complessivo 268.416 euro più IVA. Regolamento su Ford.it. Ricordi quel progetto? Mesi sul computer. E quei database sul server? Ricordi tutti i dati amministrativi, le statistiche sui clienti, le note, i file? Il tuo disco si ricorda, anche se si rompe. Vai su recuperadisco.com, crolla OnTrack, lo recupera. Sai subito quanto ti costa e cosa puoi salvare. Poi decidi tu. E se ti liberi di un computer, pensa alla privacy e cancella davvero tutti i dati. Vai su cancelladisco.com. Cancelladisco.com e recuperadisco.com. Due soluzioni crolla OnTrack. Leader mondiale del recupero dati. Scarica il voucher di prova. Scopri te stesso insieme alla nuova Subaru Forester. Scopri il tuo equilibrio insieme alla trazione integrale simmetrico LVD. Scopri la tua forza insieme alla spinta del motore boxer. Scopri la tua prontezza insieme a X-Mode per il massimo controllo nelle condizioni più estreme. Scopri la tua sicurezza insieme a una Subaru. Nuova Subaru Forester, diesel e benzina, insieme, non importa dove. Scoprila il 26 e 27 gennaio negli showroom Subaru, a partire da 29.990 euro. Interrompiamo i vostri programmi per fare una dichiarazione ai professionisti. Ma anche la contabilità, i bilanci, le paghe, la gestione dello studio, l'archiviazione documentale, anche in cloud. Stop! Rifacciamo! Hai dimenticato la conservazione sostitutiva e il portale collaborativo di studio. E come si fa in 30 secondi? Wolters Kluwer Italia le fa tutte le soluzioni software per commercialisti e consulenti del lavoro. E ricordati di dire che sono firmate OSRA e IPSOA. Wolters Kluwer Italia. Quando si è primi, i secondi non bastano mai. software.whi.it. Eccoci qua alle 7:33 minuti. Il caso del giorno sicuramente è quello che riguarda Monte Paschi Siena, dopo che un paio di giorni fa il Fatto Quotidiano ha rivelato di alcune operazioni di derivati riferite alla gestione precedente, la gestione Mussari a capo della storica banca con sede a Siena, e da allora è un po' tutto precipitato dal punto di vista della cronaca, nel senso che Mussari si è dimesso dai vertici dell'ABI. E ora il caso tra l'altro è diventato, oltre che finanziario, anche politico. Monte Paschi Siena, azione di responsabilità in arrivo, così sul Sole 24 Ore il titolo di Finanza e Mercati, del dorso Finanza e Mercati, con Cesare Peruzzi e Riccardo Sabattini, che intanto raccontano quelli che sono gli eventi di oggi, cioè un'azione di responsabilità nei confronti degli ex dirigenti di Banca Monte Paschi e quanto stanno valutando alla Fondazione Monte Paschi Siena, cioè il primo azionista, insieme anche alla valutazione della provincia di Siena, una delle principali istituzioni di riferimento, e anche ai nuovi management dell'istituto di credito si sta valutando questa cosa. Scatenare la bufera che ha mandato a picco il titolo, tra l'altro, ieri di Monte Paschi, meno 8,4%, e spinto alle dimissioni l'ex presidente Mussari, ora presidente dell'ABI, sono le operazioni Santorini e Alexandria su prodotti derivati che, per ammissione degli attuali vertici del gruppo, potrebbero causare una perdita patrimoniale di circa 500 milioni. In realtà poi c'è un'intervista interessante, tra poco la vedremo, dell'attuale amministratore delegato di Monte Paschi, Viola, al Messaggero, che quantifica in circa 720 milioni quella che potrebbe essere la perdita definitiva quando si sarà chiusa questa vicenda. Certo, interessante anche, vi segnalo l'inchiesta di Moria Longo e Fabio Pavesi sui retroscena del maxi contratto su oltre 20 miliardi di buoni del tesoro a lungo termine firmato, siglato dai vertici precedenti di Monte Paschi Siena, che ha portato poi a questa situazione. E è bella, efficace la metafora sul Sole 24 Ore di quello che sono stato l'inanellare di errori clamorosi. Qual è la metafora? Beh, è questa: le probabilità di realizzare tanti investimenti sbagliati tutti in fila, come è accaduto al Monte Paschi dal 2006, erano più o meno le stesse di fare zero alla schedina del Totocalcio. Monte Paschi ci è riuscita. Il problema è che a pagare il conto ora sono gli azionisti. Se infatti la banca senese avesse azzeccato almeno uno di questi investimenti, soprattutto l'ultimo derivato sui tassi, avrebbe dovuto chiedere al mercato meno aumenti di capitale. Soprattutto oggi avrebbe minori necessità di chiedere aiuti allo Stato italiano. Forse, ipotizzano alcuni, i Monte Bond non servirebbero del tutto. E qui inizia il racconto appunto di questi... anche tecnico, di come questa operazione, prima Santorini e poi Alexandria, abbia portato a una situazione di buco adesso emersa. Come dicevo, l'amministratore delegato attuale Fabrizio Viola viene intervistato dal Messaggero, trovate l'intervista a pagina 5, e dice: la perdita, lo svantaggio attualizzato si aggira attorno alla cifra di 720 milioni. La domanda è la questione: perché non è stata avvisata Banca Italia? Beh, risponde Fabrizio Viola, bisognerebbe chiederlo ai vertici precedenti. Io posso fare solo supposizioni, preferisco tenerle per me. E gli incaricati dei controlli interni? Non le sembra strano che non si siano accorti di nulla? Voi ci avete messo qualche mese, ma alla fine avete scovato queste operazioni. Anche qui potrei fare solo supposizioni, dice Viola. Vabbè, le faccia a questo punto. Ed ecco la risposta dell'amministratore delegato. Per lungo tempo il Monte Paschi e la città di Siena sono stati tutt'uno, un sistema nel sistema. Immagino che a volte il sistema abbia avuto la prevalenza sulla volontà del sindaco e del singolo. Come dire, consideri il caso del Tengo Famiglia. Probabilmente si è trattato un po' di comportamenti disonesti, un po' del Tengo Famiglia. Ecco, questo è il punto che apre il caso politico. Monte Paschi e Siena per stessa missione dell'amministratore delegato, sono un po' un tutt'uno, una stessa cosa, un sistema che forse è stato troppo intrecciato, e da qui si apre appunto il caso politico che vedremo tra un attimo. Prima però vi segnalo che il Fatto Quotidiano, che continua ovviamente in questa inchiesta che ha lanciato con Marco Lillo, oggi pubblica che cosa? Pubblica la telefonata. Non è una vera e propria telefonata, non è neanche un'intercettazione, è una conference call da cui è partito tutto. Ecco la conference call tra gli allora vertici di Monte Paschi Siena, era il 7 luglio 2009, 16:30. Conference call, da una parte ci sono i vertici di Monte Paschi Siena, dall'altra quelli della banca giapponese Nomura, che registrano tutto. Per Monte Paschi ci sono il presidente Mussari, il direttore generale Vigni, il capo della finanza Baldassarri e il capo della contabilità Daniele Bigi. Per Nomura a Londra ci sono il presidente Sadek Sayed, i dirigenti Giancarlo Saronne, Raffaele Ricci e Kieran Higgins, e anche Pierce Lamerchant e Mark Lerner. Cioè, quindi una decina di persone in conference call. C'è tutto lo sbobinato della conference call, che vi risparmia, è tutta una questione molto tecnica sulla ristrutturazione del CDO, cioè il titolo derivato, ma il punto focale che traduce Marco Lillo è questo. Il presidente di Nomura, insomma, a un certo punto fa ripetere a Mussari, registrandolo, lo schema della doppia operazione che stanno facendo. Caro Mussari, gli dice in pratica Sayed, il capo di Nomura, ti è chiaro che io compro il tuo titolo, Alexandria, nonostante sia fonte di perdite, solo perché tu ti impegni a comprarmi tre prodotti che ti legheranno per 30 anni e che da subito faranno recuperare a Nomura il dono che ti faccio? Lo sciagurato rispose, secondo Marco Lillo, sì, ho capito. E qui, insomma, c'è l'affare che tra l'altro si conclude, questa conference call si conclude così. Sadek conclude la telefonata ringraziando tutti, scusandosi per il fatto che la conversazione si sia tenuta al telefono piuttosto che davanti a una bottiglia di buon vino, magari a Siena, di Chianti. Mussari e la banca Nomura, ecco la telefonata che scotta, da lì partì tutto. Allora, il caso politico. Dal centrodestra gli attacchi sono, è una banca di sinistra legata al Partito Democratico. Bersani replica, ma quale, per carità, noi facciamo il Partito Democratico e noi facciamo politica e le banche fanno le banche. D'Alema, interessante, a pagina 3 della Stampa, racconta Francesco Manacorda in questo retroscena. Sentite cosa dice, il presidente del Monte lo abbiamo cambiato proprio noi. Chiedete ai banchieri che lo hanno tenuto ai vertici dell'ABI. Beh, è interessante questa riflessione fatta da Massimo D'Alema. Sentite, Massimo D'Alema, risata secca, e dice proprio così. Sono i banchieri che hanno tenuto ai vertici Mussari. Noi l'abbiamo cambiato un anno fa insieme a tutto il consiglio di amministrazione. Chiedete ai banchieri che lo hanno tenuto come loro presidente. È dunque a loro che eventualmente bisognerebbe rivolgersi. Questi sono i fatti documentati, tutto il resto sono commenti. Certo, uno dei commenti potrebbe essere si adombra con questa dichiarazione il sospetto che allora furono cambiati i vertici perché si sospettava qualcosa? Si sapeva qualcosa già allora? Questa potrebbe essere la controdomanda a questo punto da porre a Massimo D'Alema. In ogni caso, il Partito Democratico fa quadrato a dire non c'è assolutamente nessuna responsabilità politica. Il giornale Libero invece attaccano duramente, il giornale mette in prima pagina il titolo «Abbiamo pagato l'IMU a Monti per salvare la banca del Partito Democratico», quindi la definisce così, la banca del Partito Democratico. Insomma, diciamo che ci sono ovviamente anche attacchi politici di questo tipo. Il Corriere, con Federico De Rosa, lo scrive chiaramente a pagina 4. Il Monte Paschi diventa un caso politico anche con le dichiarazioni. E Banca Italia? Beh, Banca Italia si difende dicendo ci hanno nascosto le carte. Leggo sempre dal Corriere della Sera, pagina 5, Stefania Tamburello. La Banca Italia non sapeva tutto. La vera natura di alcune operazioni del Monte dei Paschi Siena è emersa solo di recente a seguito del rinvenimento di documenti tenuti celati all'autorità di vigilanza, portati alla luce dalla nuova dirigenza del Monte Paschi. Insomma, il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, questa è la posizione di Banca Italia, non sapevamo nulla, ci hanno nascosto, mentre ora che sono arrivati i nuovi vertici con Alessandro Profumo e con Viola, hanno fatto emergere tutto quello che era stato tenuto nascosto. Beh, è una vicenda che sicuramente avrà degli sviluppi in campagna elettorale a maggior ragione, perché caso politico lo è diventato certamente nei prossimi giorni. Intanto l'economia fa registrare, o meglio l'economia intrecciata alla politica, fa registrare una delle notizie del giorno, il fatto che Confindustria ha lanciato quello che è definito il progetto per l'Italia, un'Italia definita dal presidente Squinzi in emergenza e all'ultimo minuto per la svolta, progetto che è una terapia d'urto da 300 miliardi, scrive Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore a pagina 2, il PIL almeno al 2%, questi sono i dati in sintesi della terapia d'urto proposta da Confindustria, una crescita di almeno 2% l'anno che già nel 2017 potrà arrivare al 3% e quindi aumentare del 12,8% da qui al 2018, un tasso di disoccupazione che scenderà dal picco del 12,3% atteso per il prossimo anno all'8,4%, creando così 1.800.000 posti di lavoro e portando il tasso di occupazione al 60,6%, un peso dell'industria al 20% del PIL e poi meno tasse con una pressione fiscale che passerà dal 45,1% al 42,1%, reddito medio delle famiglie che vivono di lavoro dipendente più alto di 3.980 euro reali. Questo in sintesi è appunto il piano che Confindustria invita a prendere come obiettivo raggiungibile della politica, rivolgendosi, come ha detto Squinzi, a chiunque vinca le elezioni. È un piano che il manifesto bolla come diktat, a pagina 3, ecco i diktat della Confindustria, Squinzi, lavorare una settimana in più, flessibilizzare i contratti, Antonio Sciotto è molto critico, come è critico il manifesto su queste proposte. Prima della politica, perché come dire, l'economia, Monte Paschi Siena hanno anche, l'economia e finanza hanno messo in secondo piano, almeno sui giornali per un giorno, le dichiarazioni politiche. Questo non è neanche un male, francamente, visto che di programmi come sempre zero, ma solo botte e risposte. E prima del traffico, una notizia dal Fatto Quotidiano. Volete sapere, secondo Giorgio Meletti, quanto Augusto Fantozzi, ex commissario della vecchia Alitalia, si è intascato per fare appunto il commissario? 9 milioni di euro, oltre ad aver dato consulenze a destra e a manca, scrive il Fatto Quotidiano, per 32 milioni di euro. La pagina è interessante, pagina 5, Fantozzi a 6 zeri, 9 milioni di euro per rottamare all'Italia, il report sul commissario della Bad Company, stipendio d'oro e spese folli per consulenti e per il suo studio legale. Tra stipendio e consulenze, secondo il Fatto Quotidiano, ci è costato 41 milioni di euro. Allora, che cosa ha regalato invece la politica come dichiarazioni? Beh, Bersani e Monti sono abbastanza ai ferri corti. Ieri Bersani ha tuonato dicendo: non mi faccio fare le pulci da chi ha creato i problemi, voglio sentire tutti pronunciare la parola esodati. Quindi Bersani ha replicato così a delle critiche, delle punzecchiature di Monti, a dire: lui ha creato il problema degli esodati e basta fare lezioni. C'è da dire quindi, anche per Avvenire, Monti Bersani ancora scintille, perché il premier ha detto: io sono in campo per tutelare le vittime dei governi precedenti, questa è la visione di Monti, e la risposta di Bersani: non ci faccia le pulci chi ha creato gli esodati. C'è anche l'apparizione di Renzi, che è comparso ieri da Daria Bignardi alle invasioni barbariche dopo un silenzio abbastanza prolungato. Renzi che ha detto: non sottovalutiamo Berlusconi, perché la sinistra potrebbe rischiare di perdere le elezioni, quindi bisogna stare tutti compatti. E su Monti è stato anche lui molto critico, ha detto: poteva scegliere di fare Ciampi e invece finirà come Lamberto Dini. Questo ha detto Renzi. Mentre il Popolo della Libertà si dibatte intanto sul fatto che raccontano vari giornali: non ci sono soldi in cassa. Il cassiere del Popolo della Libertà, Bianconi, ha detto: ci sono 100-200 mila euro, non di più, per fare la campagna elettorale. Infatti Libero titola: effetto Veronica sul Popolo della Libertà. Colpa di Veronica Lario, colpa di Veronica Lario e delle sue richieste che si aggirano attorno a un milione di richieste, quello che gli ha dato il tribunale, 1,5 milioni di euro al mese, più forse la villa di Macherio, questo dovrà concedere Berlusconi alla ex moglie, e quindi effetto Veronica. per fare campagna ci sono appena 200.000 euro. Ma il Corriere della Sera racconta che Berlusconi è pronto, ve la do così, a una proposta shock sull'economia che verrà tenuta per la fine della campagna elettorale. Questo è un po' un gossip, perché al Corriere della Sera non si dice nulla su questa proposta shock. Sapete, nella una vecchia campagna elettorale fu quella che promise di abolire l'ICI, oggi IMU, l'ICI, all'ultimo giorno praticamente del dibattito con Prodi. Chissà se ha questa proposta shock in serbo Silvio Berlusconi. Scioccato, o meglio schifato, invece si dice Nicola Cosentino, escluso dalle liste. Fa un'intervista a Repubblica da Concita Sannino, che fa l'inviata, va a scovarlo a Caserta, all'inizio un po' restio a parlare, poi risponde alle domande e dice: sono stato bersaglio di un gioco delle parti, tra più parti, ora mi difenderò dai processi. Certo, voterò, andrò a votare, come faccio a rinnegare una vita, però non faccio null'altro, cioè niente di campagna elettorale, ora si arrangino. E poi questa frase, la frase è questa di Nicola Cosentino: mi sta cercando Berlusconi da ore, mi lascia messaggi, ma io non rispondo perché sono schifato, si è svenduto tutta la sua cultura garantista per un pugno di voti. Poi Cosentino racconta anche: fu io a intervenire nel caso Noemi, ricordate Noemi Letizia, perché alla domanda di Concita Sannino, Berlusconi non la teme, lei è Cosentino che mise a tacere le famiglie di Noemi Letizia e Roberta Oronzo quando la parola olgettina ancora non esisteva. Sì, io ho sempre risolto problemi, risponde così Cosentino. Ma non ne ho mai creati al PDL. Faticai tanto a convincere il sindaco di Terzigno, Auricchio, ad aprire la discarica sul Vesuvio, se no veramente affondavamo tutti nella monnezza. E meno male, allora non c'erano le navi di rifiuti verso l'Olanda. Poi sì, è vero, tranquillizzai quelle ragazze. Ecco, questa è la frase di Nicola Cosentino. Può sembrare quasi un messaggio, come dire, ecco, so qualcosa. Sì, allora intervenni. Adesso non voglio più fare niente di operativo per il Popolo della Libertà. Così su Repubblica parla Nicola Cosentino. E poi vabbè, c'è anche la bufera sulla Russa, è tornata la questione degli omosessuali, i figli degli omosessuali, le adozioni omosessuali fanno crescere gay. La bufera, scrive il Corriere sulla Russa, la Concia si è molto arrabbiata, deputata gay del Partito Democratico, che gli ha dato del razzista, non è vero, le condizionamenti familiari non c'entrano niente sulle scelte sessuali delle persone, insomma qui il solito dibattito che per la verità non solo la Russa ha detto, anche Gabriele Albertini nei giorni scorsi, cioè che le adozioni a omosessuali possono portare i figli a diventare anche loro omosessuali. Vabbè, insomma, se vi appassiona questa polemica leggete il Corriere della Sera. Se vi appassiona invece Corona, la fuga di Corona finita, lo Scarface De Noantri fermato da un antifurto e braccato da un antifurto, colui che forse ha pianto ma querela chi dice che ha pianto, forse ha pianto perché così dicono le agenzie, ma lui, colui che è messo in carcere in Portogallo, aveva una telefonata sola da fare, come succede ai carcerati, e chi l'ha fatta? A studio aperto, per dire: sono qui, sono Fabrizio Corona, perché il business prima di tutto, l'immagine soprattutto. Fabrizio Corona è stato, dopo una fuga un po' come la definisce Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, più da Fantozzi che da Scarface al Pasino, è stato fermato in Portogallo, meglio si è consegnato lui, ma in realtà le versioni era braccato, si è consegnato. Comunque potete leggere tutto, un Massimo Gramellini strepitoso sulla Stampa che parla di questa parabola di Fabrizio Corona. Il Corriere della Sera fa una cronaca con Giuseppe Guastella, pagina 21, di tutta la fuga. Repubblica fa due pagine, quello Scarface da reality divenuto per sbaglio simbolo del male. C'è anche un'intervista alla Stampa, sulla Stampa, di Roberto D'Agostino, il fondatore del sito Dagospia, che parla dei suoi fan. I suoi fan lo amano perché Fabrizio è il tronista che è dentro di loro. Ma chi sono i fan di Corona? Beh, sarebbe veramente, io vorrei conoscerne un 5 o 6, stringere la mano, proprio dire: lei è fan di Fabrizio Corona, ma perché? Perché, dice Roberto D'Agostino, tira fuori il tronista che è dentro di loro. Questo lo trovate sulla Stampa. Una chiusura. per l'intervista a Paolo Trudu, colui che ha accusato Vendola di essere di sentire dalle parti di Vendola odore di vecchio frociame. Paolo Trudu, responsabile stampa del PDL a Ragione Sardegna, viene intervistato dal Fatto Quotidiano a Malcolm Pagani. Leggetela l'intervista, pagina 7, non c'è tempo, ma leggetela perché è interessante. Lui dice: io sono un moderato, colui che ha detto di Vendola becero frociame. Io sono un moderato. L'intervista sul Fatto Quotidiano a Paolo Trudu. "24 mattino, l'Italia si desta." Siamo qui alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, voglio salutare per parlare di attualità e di un fatto politico di cronaca che ha suscitato qualche polemica, il sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi. Buongiorno sindaco, ci sente? Benissimo. Eccoci qua, buongiorno sindaco. Allora, lei si è trovato qualche giorno fa a dover fare un rimpasto di giunta, come purtroppo a volte capita, succede per dimissioni. Aveva scelto un assessore, Marco Solimano, però ci sono state molte polemiche. Marco Solimano, ex consigliere comunale, ex garante dei detenuti, presidente dell'Arci a Livorno, immagino molto conosciuto, però con un passato anche in prima linea, per il quale ha dovuto scontare anche 20 anni di carcere. Poi ha rinunciato Solimano. Lei come giudica questa vicenda? Ha fatto bene alla fine a fare un passo indietro, sindaco? Ma guardi, bisogna che facciamo una storia brevissima di questa situazione. La prima questione: Marco Solimano è tuttora garante dei detenuti, non è che sì, non lo è più. E in più Marco Solimano è stato per 10 anni consigliere comunale dei Democratici di Sinistra, eletto dai cittadini livornesi. È un dissociato dal terrorismo senza fatti di sangue dal 1986, epoca della legge Gozzini, altro voluta in maniera molto forte dalla sinistra italiana per chiudere una fase storica. È presidente dell'Arci da circa 10 anni ed è persona con la quale normalmente in questa città si lavora. Ho l'impressione che al tempo di Twitter tutti abbiano pensato di poter discutere di questa cosa in 75 caratteri. Personalmente credo che Marco anche abbia fatto bene. Anche 140, sindaco, però insomma, ha fatto bene perché a un certo punto la mediatizzazione della sua vita, dover ripercorrere una serie di cose, è stata una questione che l'ha messo nel tritacarne. Devo dire però che non è una bella pagina per la politica. Ecco, non è una bella pagina per la politica, ma lei conferma che il suo stesso partito le ha detto che per una questione di opportunità era meglio rinunciare a questa nomina? Il mio stesso partito ha dato un giudizio su questa questione francamente abbastanza atipico, no? Perché quando una persona firma tutti gli appelli elettorali, è persona alla quale si chiede una mano per costruire progetti non solo sulla città ma anche a livello regionale, mi sembra evidente che poi dopo quando avvengano queste cose è un po' un'ambiguità, diciamo così, per la fase elettorale, se devo dire. Per la fase elettorale. Però cioè, devo dire che questo è vero, peraltro su questo c'è anche una quella che i medici, come sono io, chiamano una dispareunia delle sensibilità, una diversa modalità di affrontare i problemi, o forse c'è più una localizzazione del problema, nel senso che io conosco questa persona da molto tempo, l'ho avuto in consiglio comunale per 10 anni quando ero segretario dei Democratici di Sinistra, sottolineo rimanendo a lavorare sempre, perché io sono fuori dal mondo del lavoro solo perché in una città di 160.000 abitanti deve fare il sindaco a tempo pieno. Devi fare il però sindaco, scusi, tempo per lei. Sindaco, vogliamo ricordare, cioè Solimano, che anche per la stessa condanna che ha subito non ha mai imbracciato un'arma, però è stato considerato diciamo un autore del concorso morale di aver organizzato la partecipazione all'assalto del carcere del 20 gennaio 78 al carcere del Murata, in cui fu ucciso Fausto Dionisi, cioè un agente di polizia. Ed è corretto dire che la distanza siderale fra quelle esperienze e il modo di pensare la politica, non solo dell'oggi, ma anche dell'allora, è un elemento per il quale gli unici veri soggetti vittime di questa situazione sono le vittime e i loro parenti. Che però si sono molto arrabbiati, cioè quando è apparsa la possibilità della nomina, per esempio, le leggo, il segretario generale del sindacato indipendente di polizia Franco Maccari ha detto: siamo all'assassinio della pietà, al sovvertimento dei principi di buon gusto e decenza. Mi deve perdonare, se lo scrive la vedova di Dionisi, della vicente Dionisi, non solo è comprensibile, ma è anche un elemento, come dire, di giustizia. Chi ha commesso quell'omicidio ha tolto dalla vita una persona, e quindi gli affetti, le sensazioni. Si figuri se non sono perfettamente d'accordo. Ho l'impressione che altri però dicano cose che forse sono un po' in libertà. Io credo che... Però anche la signora Mariella è stata critica, ha detto... Ma lo comprendo, e su quello non ho niente da dire, sono oggettivamente d'accordo con lei sul concetto. Però vede, c'è un punto che, se mi perdona, le esprimo con grande semplicità. Non è che si può fare la legge Gozzini, dopodiché questa legge, che è un punto che chiude una fase storica, dopodiché quando la si applica nei fatti diventa un elemento sul quale poi si ricomincia da capo. Io su questo sono molto concreto e le devo dire, fra le altre cose, che non abbiamo mai avuto nessun cedimento. Io vengo da un partito che della lotta al terrorismo ne ha fatto non solo un vanto, ma anche una posizione che gli ha fatto perdere un sacco di voti. Insomma, diciamo, è stata una scelta in questo momento di campagna elettorale per la quale il partito gli ha chiesto di fare un passo indietro, una retromarcia. Secondo lei anche le polemiche sul recente funerale di Prospero Gallinari, ex brigatista, autore del sequestro Aldo Moro, hanno inciso? Senta, la ringrazio per la domanda, perché questo mi consente di dire che non c'è nessun parallelismo fra le due situazioni. Lì c'era un'associazione di reduci che si è rappresentata, qui siamo di fronte a un mondo che invece si è sviluppato in maniera totalmente diversa, e credo che il parallelismo sia stato fatto proprio all'epoca di Twitter, senza guardare alla storia e guardare alla cultura delle cose. Sono due casi totalmente diversi. Però lei, nei confronti di Solimano, cioè Solimano come ha preso la notizia? Immagino con delusione, voleva fare l'assessore, questo no, sì. No, Solimano si è tirato indietro, guardi. Le devo dire che Marco Solimano si è tirato indietro in una discussione molto serena, poi abbiamo fatto anche una conferenza stampa insieme. Lui ha detto: non ho nessuna voglia di dover tutte le volte essere rimesso in un tritacarne, non ci sono le condizioni culturali in questa fase, preferisco rinunciare. E invece da Bersani, cioè lei ha avuto segnali a che livello di partito? A livello regionale, immagino. Ma anche questo mi perdoni, sarà una questione, una discussione che affronteremo internamente. Io sono rimasto molto male che ho trovato una dichiarazione del responsabile degli enti locali toscano sulla stampa, questione alla quale non sono abituato e che ha francamente anche fatto esplodere la questione, non in una maniera dialettica, che era corretto e giusto, peraltro il regionale era già informato da mesi, ma ha fatto esplodere una situazione veramente incredibile. In più le devo dire, guardi, su questo sono ipersensibile, perché vorrei dare un giudizio politico, no? Cioè, incominciamo un pochino a essere stanchi di dover supportare elementi che sono tutti di mediatizzazione. Io non ho elementi personali di conflitto con il responsabile degli enti locali toscano, tra me e lui c'è una distanza siderale. Lui prende 120.000 euro l'anno in una nomina politica, io faccio il medico, l'ho fatto per 20 anni in ospedale, non ho mai fatto una visita a pagamento. La differenza tra me e lui è questa qui. Vabbè, sindaco, intanto io la ringrazio, si è ricomposto in questa maniera, anche se noto un po' di delusione, insomma, per tutta questa vicenda. No, nelle sue parole deluso, mi perdoni, sono deluso del fatto che non ci sia stato un dibattito serio, perché se questa questione fosse stata affrontata come elemento culturale vero, allora a quel punto potevamo anche dire: è un errore in questo momento, è un errore del sindaco Cosimi, è comunque una questione troppo. Io non credo però che si possa chiedere a una persona di fermare gli appelli al voto e poi di fronte a una scelta di questo tipo dire che non è opportuno. Va bene, la ringrazio, buona giornata, grazie per essere stato con noi il sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, per questa vicenda dell'assessore nominato Marco Solimano, e poi ha dovuto fare dietro front perché nel suo passato c'è anche questa condanna a 22 anni, 20 anni credo di carcere, scontati peraltro per aver fatto parte di Prima Linea. Noi dopo la pubblicità e il meteo, oggi vi voglio raccontare la storia di una persona che sarà nostra ospite, sarà ai nostri microfoni tra poco. Il nome dice nulla, immagino, a molti italiani. Si chiama Giuseppe Gulotta. È una storia questa vera di carcere. E io vi pongo anche una domanda, cari ascoltatori. Per me è uno dei peggiori incubi poter finire in carcere nella mia vita. Insomma, ognuno ha un incubo. L'idea, l'ipotesi di poter finire in carcere è davvero una delle cose che mi angoscia di più. Quest'uomo, Giuseppe Gulotta, è stato 21 anni e 6 mesi in carcere per un reato che non aveva mai commesso, che non ha mai commesso. È stato 21 anni e mezzo in carcere ingiustamente. Fu accusato di aver ucciso due carabinieri, fu preso, prelevato, torturato. Per questo confessò una confessione poi ritrattata perché fatta sotto tortura. E poi, dopo tanti anni, un altro carabiniere disse: effettivamente prendemmo le persone sbagliate, le torturammo e questa persona ha dovuto scontare 21 anni e 6 mesi di carcere. Ecco, voi come vi sentireste in Giuseppe Gulotta? Lui ha deciso di chiedere anche i danni allo Stato, chiede 69 milioni di euro di danni, ma non è tanto una questione economica che vogliamo affrontare con lui tra poco, e se volete anche con le vostre telefonate, se volete con le vostre domande, 800 24 00 24. Tra poco, 5 minuti e rientriamo. Il mio nome è Alessandro Ragno, portiere, capitano della squadra di calcetto, sulla maglia il numero 1. Impedirò alla capolista di violare la mia rete e di rovinarmi le domeniche gratis. Ogni giorno un milione di persone sale in auto e si sente fiero. Ha scelto Directline, l'assicurazione che ai nuovi clienti, con la garanzia infortuni del conducente, offre tutte le domeniche gratis. Fai un preventivo su directline.it e scopri i dettagli dell'offerta. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Non posso presentarmi dai miei clienti con questo PC. Io ho comprato il notebook convertibile Dell XPS 12. Mi hanno rimborsato 150 euro permutando il mio vecchio PC non Dell. 150 euro? E dove? Vai su Dell.it, chiedi al tuo rivenditore di fiducia. Scegli un nuovo Dell con Microsoft Windows 8 e dando in permuta il tuo vecchio PC ottieni un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Microsoft Windows 8. Elegante, semplice e veloce. 1 milione di euro per un macchinario in Cina. 100.000 euro per lo smobilizzo di crediti. 500.000 euro di investimenti in Brasile. Puntate sulla crescita del vostro business. Affidatevi al gruppo SACE. Noi ci occupiamo dei rischi. Voi cogliete le opportunità. Come? Con assicurazione del credito, garanzie su finanziamenti, protezione degli investimenti, cauzioni, factoring. E oggi con PMI No Stop, sconti e agevolazioni anticrisi per le piccole e medie imprese. Scoprite i dettagli dell'offerta su SACE.it. Fuori dai luoghi comuni c'è un paese da esplorare. Scoprite il profilo di un'Italia ancora nascosta con la leggendaria trazione integrale 4, disponibile su oltre 140 modelli Audi, come Audi Q3 in versione business, con pacchetto di navigazione, Bluetooth e Audi Music Interface, volante multifunzionale, regolatore di velocità e ausilio al parcheggio posteriore, e un vantaggio cliente fino al 37%. Italia, Land of 4. ABI, le banche italiane per il paese. Il 26 gennaio a Messina, la nuova tappa del Roadshow Italia. Un incontro con le famiglie, le istituzioni e gli imprenditori del territorio per rendere concreto ed evidente il sostegno delle banche all'economia e alla collettività. Le banche per il paese. Il 26 gennaio a Messina, presso il Palazzo della Cultura Antonello da Messina. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24.

e poi la sera del 22 febbraio vengano i carabinieri e mi arrestano e mi portano in caserma. Questo ad Alcamo, Trapani. La cosa incredibile è che lei ha raccontato, quando sono venuti a prendermi i carabinieri, io pensavo che fosse per la mia domanda che avevo fatto alla Guardia di Finanza, come dire, mi portano in caserma per questo motivo, forse davvero riesco a coronare questo sogno, entrare in Guardia di Finanza. Invece? Certamente, invece era tutto diverso, una cosa che io proprio impensabile, non credevo che fosse per la morte dei due carabinieri. Nulla. Che successe in quella caserma? Mi portano in caserma tutta la notte, mi massacrano di botte, come dire, non ci sono parole per descrivere quello che fanno i carabinieri di Alcamo. Il che la mattina mi costringono a dichiarare un fatto che io non ho commesso, facendomi addossare la colpa di avere ucciso due carabinieri. A quel punto lei sa che nel momento, lei è vero, ritrattò quasi subito al processo dicendo mi hanno estorto questa confessione, però è chiaro che di fronte a una firma, a quel punto la macchina della giustizia, come dire, è partita impietosa. Io la mia ritrattazione l'ho fatta il giorno 13 stesso davanti al pubblico ministero nel carcere di Trapani, poi che il 13 sono stato portato in carcere, interrogato dai PM, ritratto subito dicendo che quella mia dichiarazione fatta ai carabinieri era frutto di percosse e torture, diciamo. Nulla, non mi hanno più creduto ed è partita la macchina della giustizia. Per la quale lei fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di questi due carabinieri. Dopo un primo periodo, diciamo, di carcerazione, dopo 2 anni e 3 mesi esco per decorrenza dei termini, perché viene impugnata la sentenza, diciamo, in rinvio a giudizio, esco, fanno altro istruttoria, poi c'è il rinvio a giudizio, il primo grado vengo assolto per insufficienza di prove, poi il secondo grado, cioè in appello, vengo condannato all'ergastolo, dal 78 al 90 si susseguono circa 9 processi di appello e cassazione. Il che nel 1990 la sentenza di Catania mi fa la condanna di ergastolo, che la Cassazione dopo un anno conferma. Senta, lei ha fatto quanto? 21 anni e 6 mesi di carcere? Complessivamente, diciamo, in questo periodo ho fatto 22 anni, vorrei essere più preciso. 22 anni. Sono dal 90 al 2010. Senta, in una piccola posta, cioè la rubrica che Adriano Sofri tiene sul Foglio, un giorno parlò di lei, era il 15 febbraio, e tra l'altro Adriano Sofri racconta: smentiamo una vulgata che c'è, e cioè che in carcere tutti dicono di essere innocenti senza essere creduti. È davvero così? Cioè in carcere tutti dicono sono innocente oppure no? Perché lei lo diceva, ovviamente, io sono innocente, ma lei lo era. Io lo ero veramente e lo dicevo a tutti, diciamo, lì, anche agli agenti penitenziari, lo dicevo ai direttori, lo dicevo a tutta l'equipe, cioè gli assistenti sociali, educatori, psicologi, insomma, io parlavo della mia situazione dicendo che ero innocente a chiunque, solo che loro, la risposta che mi davano loro era quella che purtroppo c'è una sentenza che dice che sono colpevole, per loro io ero colpevole. Ma lei Gulotta, già al carcere, ripeto, io l'ho detto come introduzione, per me è uno dei peggiori incubi che potrebbe capitarmi nella vita, è pensare di dover andare in carcere, ovviamente da carcerato. Lei, che l'ha vissuta da innocente, cosa pensava, per esempio, in quelle che lei racconta essere i momenti più drammatici, cioè la notte quando si spengono le luci e lei rimaneva solo o comunque con i suoi pensieri nella cella? La notte è quella più, come dire, quella più tremenda, stare solo in cella, pensi e ti ripeti sempre come mai io che non so nulla di tutta la storia ci fossi capitato dentro. Io non mi rendevo conto come mai, ecco. E purtroppo il carcere l'ho fatto, fortunatamente a me, dico io fortunatamente, così tanto per dire, perché tra il carcere è tragico per tutti. Io me lo so fatto, diciamo, nella mia stanza, da solo. Come ha fatto a resistere? Guardi, non me lo spiego nemmeno io. mio fatto di resistere è stato il fatto della mia tenacia, perché volevo, mi ero fissato degli obiettivi, quegli obiettivi li volevo raggiungere a tutti i costi. L'ordinamento penitenziario prevede dei benefici, io fortunatamente quei benefici il magistrato di sorveglianza me li ha concessi qua. Ho capito, era in una situazione in cui era innocente, diceva sì. A tutti di essere innocente senza essere creduto, e nonostante ciò ha dovuto fare il, tra virgolette, bravo carcerato per ottenere i benefici. Almeno per ottenere i benefici bisognava fare, cioè io la mia indole è quella di essere un uomo abbastanza calmo e sereno, cioè prendo le cose per quello che sono. Avevo una sentenza di condanna, malgrado tutto l'ho accettata, ho fatto il carcere con la prospettiva di un fine di riapertura del processo. Io il mio obiettivo era quello, perché quando io parlavo con il mio avvocato, la cosa che gli ripetevo sempre: bisogna rileggere tutte le carte, perché le prove della mia innocenza sono nelle carte, il che ora è accertato, ora è stato dimostrato. Con il processo di revisione è stato accertato, diciamo. Senta, lei ha detto che ha un'indole molto serena, io lo so, ieri anche la nostra Elisabetta Fusconi ha fatto una chiacchierata con lei, so che lei è una persona che per esempio non coltiva il sentimento dell'odio o della rabbia fine a se stessa per tutto quello che è successo, però quali sono i suoi sentimenti oggi? Oggi sono quelli che questa storia, vada raccontata in modo che casi come il mio non ne succedano più. Però ecco, io dico, la rabbia che serve? La rabbia credo che non mi fa tornare indietro, 36 anni di vita vissuta in difficoltà. La storia è 36 anni. E certo, perché tra processo poi è partito, la condanna definitiva ci fu appunto nel 90, ma ci fu tutta la vicenda processuale. Cioè lei dal 1976, in pratica, da quando aveva 18 anni, è finito in questa vicenda. Questo circuito che non mi dava possibilità di vita, ero sempre vincolato a determinati obblighi. E una volta all'anno un processo. Non potevo avviare una vita più serena, perché tutti gli anni avevo un processo. Nel frattempo però, e da qui voglio ripartire tra un minuto, adesso le informazioni sul traffico, lei ha avuto anche la fortuna di incontrare una donna, di fare un figlio, lei ha un figlio, vero? Certamente, ecco. Sì. E vorrei capire anche a suo figlio cosa racconta di tutta questa vicenda, e magari arrivare anche alla questione della causa che i suoi avvocati hanno portato davanti allo Stato, nel senso che lei e i suoi avvocati hanno quantificato questo risarcimento, che ho letto essere sui giornali, di 69 milioni di euro richiesti per questa ingiusta detenzione. Allora, sono le 8:46 minuti, siamo a raccontare la storia di Giuseppe Gulotta, voglio ricordarlo. Giuseppe Gulotta ha scontato da innocente 22 anni in carcere per l'omicidio dei due carabinieri ad Alcamo, in provincia di Trapani, nel 1976, 22 anni poi accertati, ingiusti, perché fu accusato da una persona, fu poi torturato in caserma, allora dai carabinieri, e appunto alla fine la giustizia, molto lentamente, dopo 22 anni, ha riconosciuto questo errore. Senta, signor Giuseppe, ci sono tanti ascoltatori che ci chiamano, si stanno chiamando, sono in linea, vogliono fare le domande. Io vorrei, se sono anche brevi, Cristian da Brescia, buongiorno, ha una domanda specifica per il signor Gulotta. Ma più che una domanda è un'affermazione, nel senso che io sono d'accordissimo col discorso del rimborso, del discorso lì. Volevo capire un attimino però che fine avevano fatto quei carabinieri che l'hanno torturata, sì? Alla fine, che non ho capito. E poi vorrei fare una proposta, nel senso, io vorrei vedere queste persone tutte, dal GIP al giudice, sì, che hanno, sì, partecipato a questa condanna, a dover fare una scelta: o versare per 26 anni, o fino a quando lavorano, il loro stipendio al signor Gulotta, oppure andare in carcere. Cioè, lei vorrebbe la responsabilità civile del giudice. Guardi, questo è un discorso che ci porta un po' fuori tema. Io le rispondo solo sinteticamente sulla responsabilità civile del giudice. La questione è: chi farebbe mai più il giudice se di fronte a un errore accertato poi si dovesse trovare a pagare con il proprio stipendio? Ma io però vorrei che il signor Giuseppe rispondesse alla questione invece, che com'è finita quella vicenda? Mandanti e esecutori non si sono mai trovati di questi due carabinieri? Trovati. Come e invece dico io, nei miei confronti è stata fatta giustizia perché è stata riconosciuta la mia innocenza. Per i due carabinieri morti purtroppo no. E invece le persone che hanno fatto quell'interrogatorio molto violento quella notte, sì, si sa qualcosa? Allora, nel 79 purtroppo uno che comandava, diciamo, la squadretta chiamata così, purtroppo dopo un anno è stato ucciso. Nelle carte dicono è stata la mafia. Anche per lui tre persone sono state accusate allo stesso modo mio, si sono fatti 17 anni e poi dopo 17 anni sono usciti innocenti. Poi altri individuati con la sentenza, con la revisione sono stati individuati circa 4 carabinieri e un paio sono venuti. Uno ha dichiarato un po', smentiva tutto, un altro si è avvalso della facoltà di non rispondere. Però signor Giuseppe, guardi, tra gli ascoltatori io lo presento, signor Renato, buongiorno. Signor Renato? Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, lei ci ha chiamato in redazione e mi dicono, Miriam Lucchetti mi scrive sulla schermata, che lei è un ex brigadiere dei carabinieri. Esatto. E leggo che lei era presente al pestaggio. Io ero presente, ma volevo precisare, contrariamente a quanto è stato descritto prima, che io in effetti non ho mai toccato con un dito. No, vabbè, cioè lei era ad Alcamo? Presente ad Alcamo, no, e precisamente non ad Alcamo, ma in un luogo dove vennero trasferiti gli indagati. Dove? Dove? In una sede di squadriglie che si chiamava Serignano. Signor Giuseppe, lei si ricorda? Signor Giuseppe, no, io come ho sempre detto non sono stato portato da altre parti, so solo che altre persone dei miei coimputati, diciamo, sono stati portati in questo posto che va bene. Il allora, il signor Renato, insomma, che ci ha chiamato come ascoltatore, ha detto: signor Renato, ci racconti, lei successe davvero qualcosa di che non doveva succedere quella notte? Tutto quello che è successo è scritto attualmente nelle sentenze e io ho cercato di riportare fedelmente tutta il retroscena di queste confessioni vergognose ottenute con metodi assolutamente incostituzionali. La Costituzione della quale è stata declamata da Benigni venne messa da parte, fuori da porto, sotto i piedi dei miei superiori. E lei che però ci dice io non alzai un dito, non feci niente, che come reagì? Cioè, cosa successe? All'epoca ero brigadiere, i miei superiori c'era anche un colonnello, io praticamente militarmente ero un sottoposto a loro, sottoposto a una disciplina militare. Feci presente al colonnello che eseguiva e dirigeva queste torture fatte nei modi che ho descritto al tribunale, che in effetti io militarmente ero un suo sottoposto. Ma giudizialmente era un ufficiale di polizia giudiziaria e gli ordinai quasi di sospendere quelle e la risposta? Quelle illegalità per altrimenti mi sarei rivolto al magistrato. E la risposta quale fu? La risposta fu che se non si procedeva in quel modo non avremmo mai scoperto gli autori della strage. Io dissi: guardi, che se continuiamo così, questo signore qua, io parlo delle torture fatte a Giuseppe Visco, l'imputato che poi chiamo fece i nomi degli altri, era incostituzionale, questo signore sotto tortura ci potrà dare tutti i nomi che noi gli chiediamo, certo. Ma sicuramente saranno persone che non, insomma, lei nomi. Conferma, signor Renato, che quella notte, anche se per Giuseppe Vesco, che era un'altra persona coinvolta, sì, ci fu qualcosa di totalmente incostituzionale. Signor Gulotta, ma è chiaro che di fronte al signor Gulotta, lei, signor Renato, cosa dice? Cosa si sente di dire? Lei come rappresentante? Volevo precisare una cosa, mi scusi se la interrompo. Sì. Io da questa storia di Alcamo, in effetti ha sconvolto totalmente la mia vita, poiché io ero un brigadiere dei carabinieri appassionato dell'arma, venni costretto per motivi proprio morali a lasciare l'arma, in quanto mi vergognavo di proseguire a fare quel lavoro. Lo facevo con passione. No, no, ma è chiaro. Signor Gulotta, che e questa insomma, è una testimonianza che da ascoltatore si è trasformata in testimonianza oculare proprio di quei fatti. Certo. Ha sentito, cioè il signor Renato dice si è addirittura vergognato, poi ha dovuto per questioni morali lasciare l'arma dopo quello che aveva visto. Lei oggi nei confronti dell'arma dei carabinieri, cosa che rappresentano lo Stato, cosa pensa? No, io contro l'arma in generale penso, diciamo, malgrado tutto quello che mi è successo, che fanno il lavoro che devono fare. Io se rabbia, se possa dire, devo avere per quelle persone che all'epoca hanno fatto quello che hanno fatto. Io nei confronti dell'istituzione sono, come dire, tranquillo. Abbastanza tranquillo. No, ma la sua serenità è a qualcosa dell'incredibile. Mi dica, abbiamo ancora un minuto, sulla questione dei 69 milioni di euro. So che è una quantificazione che hanno fatto, calcoli alla mano, i suoi avvocati. Questo ci hanno pensato solo gli avvocati. Okay. Nessuna cifra, sappiamo anche che le restituirà gli anni passati in carcere. Ma secondo lei è giusto perseguire questa strada anche del risarcimento economico? Guardi, questo non posso dire io, sono gli avvocati che stanno a fare tutto. E poi voglio dire un'ultima cosa, se mi permettete, sì, che anche 60 milioni o 100 milioni o 200 milioni non mi riportano indietro i 36 anni di vita vissuta. Questo è certo. A suo figlio lei dice di credere nelle istituzioni? Sì, sì, certamente, perché siamo sia il mio figliolo che quell'altro figliolo di mia moglie. Guardi, sono dei ragazzi che mi danno delle soddisfazioni, hanno dei lavori onesti, malgrado tutta la mia storia, non hanno preso strade sbagliate, ognuno c'ha il suo lavoro. Io sono, come dire, e dico sempre di credere che e pensare nel giusto, perché col giusto si va a finire bene. Noi, signor Gulotta, la ringraziamo, le facciamo tanti auguri. So che uscirà anche un libro sulla sua storia a marzo. Sì, nel mese di marzo credo. E uscirà, ma noi la reinviteremo, ne parleremo, glielo prometto. Uscirà a marzo un libro con la. C'è già il titolo? C'è già il titolo definitivo? Il titolo definitivo ancora no, però io credo che possa essere La vita che non ho scelto. La vita che non ho scelto. Intanto la ringraziamo, signor Giuseppe Gulotta, davvero in bocca al lupo per la sua vita. Grazie per essere stato con noi, dalla redazione tutta, un appuntamento a domani rinnovato alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.